Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, lo scabroso caso dell'avvocato David McKenzie Mills. Lo scabroso caso di una motivazione di sentenza, di condanna di questo avvocato londinese che è stato l'avvocato della Fininvest, il gruppo finanziario di Silvio Berlusconi, motivazioni in cui è detto che l'avvocato Mills si è fatto corrompere per testimoniare in modo elusivo in un processo che riguardava i fondi neri esteri della Fininvest, e chi lo ha corrotto è l'attuale presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi. Scabroso, quindi, ovviamente, terribilmente scabroso. Però bisogna andare oltre, diciamo, le apparenze e cercare di capire qual è la sostanza. Vabbè, c'è una sostanza obiettiva. Per una legge che è stata fatta dalla maggioranza parlamentare e promulgata dal capo dello Stato e che ha, diciamo, analogia con altre situazioni, per esempio l'inviolabilità giudiziaria del presidente francese e altre guarentigie che in altri sistemi come quello spagnolo in Europa proteggono i capi dell'esecutivo dal pericolo di processi, diciamo, frutto di pregiudizio in un senso o nell'altro, e quindi garantiscono la stabilità del governo. Per effetto di questo lodo Alfano, di questa legge, Berlusconi non è nel processo, e questo è un dato obiettivo. Però naturalmente, siccome è investito come uno schiaffo, no? dalle motivazioni della sentenza, noi appunto alla sostanza delle cose dobbiamo andare. Ci andiamo volentieri dicendo, per quanto mi riguarda, ma sentiremo il parere dei nostri ospiti, la cosa più semplice e secondo me anche alla fine la più nuda, la più cruda e la più vera. Berlusconi è un eroe giudiziario postmoderno, uno dei cardini della cultura cosiddetta postmoderna è che non esiste la verità. La verità è una cosa cupa dalla quale guardarsi, esistono solo interpretazioni. Effettivamente, se voi prendete oggi il giornale di Mario Giordano e guardate il testo pubblicato dell'autodifesa di Berlusconi contenuta nel libro di Bruno Vespa, non entro naturalmente nei dettagli perché sarebbe un po' troppo lungo e complicato, uno dice, beh, c'ha assolutamente ragione lui, insomma, come si fa a condannare l'avvocato Mills e come si fa a condannare Berlusconi per una vicenda in cui l'unica cosa accertabile è che Mills voleva frodare il fisco e quindi ha scritto, detto, questa è una donazione per non pagare le tasse su queste parcelle percepite. Insomma, sembra vero, l'interpretazione che dà la difesa sembra vera. Se leggete i pezzi di Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, o ancora oggi mi pare Colaprico, insomma dei giornalisti più illustri nell'arte pistarola, e invece sembra che Berlusconi sia colpevole. Che cos'è che fa la differenza in un sistema liberal-democratico che funzioni? Non anomalo com'è invece la situazione italiana. Cos'è che fa la differenza? L'autorevolezza del giudice. La difesa ha le sue ragioni, l'accusa ha le sue ragioni, ma poi c'è un giudice terzo, il quale a nome del fatto che il giudice è solo la bocca della legge ed applica la legge, questo giudice dice un'opinione che diventa una sentenza. Il suo libero convincimento è così autorevole che mette a tacere le polemiche. Se è per l'assoluzione, nessuno si lamenterà. Se è per la condanna, sì, ci si può lamentare, ma non più di tanto, perché questo ha decretato un sistema di giustizia arbitrale in cui tutti si riconoscono. È quello che succede in America, in Inghilterra, già in Francia un po' meno. Ma insomma, comunque è quello che succede in molte democrazie moderne. In Italia no. Perché? Perché i giudici, questa è la mia opinione, da molti anni, da quasi 20 anni, si sono autoarruolati in battaglie morali, politiche, ideologiche, civili, che non hanno niente a che vedere con l'esercizio della giurisdizione. Cioè hanno varcato la linea rossa che deve dividere il giudicare dal militare. L'hanno varcata, sono entrati nella militanza politica e civile, per certi aspetti anche legittimamente, ma per altri aspetti no, e sono tutti, diciamo, schierati, o quasi tutti schierati, nel modo che sappiamo. Ecco, non mi piace l'espressione toghe rosse, non sono giudici comunisti, ma sono giudici che l'hanno giurata da quasi 20 anni a Berlusconi, il quale naturalmente fa sempre il conto del numero di inchieste, di perquisizioni, di quattrini che gli è costata il suo famoso, celebre conflitto con la giustizia. Il giudice del caso Mills non fa eccezione. Anche lui è un giudice autorevole, una persona ottima, non abbiamo niente da dire su Nicoletta Gandus. Però è vero che è un giudice militante. E quando si fa giustizia sulla base di atteggiamenti militanti, le cose si complicano, come è evidente nell'attuale caso Mills. La prima domanda la farei a Enrico De Aglio, autore di Patria 1978-2008, un librone del Saggiatore che si legge come un film, una serie di sequenze che sono la cronaca o la storia dei nostri ultimi 30 anni. A Enrico De Aglio, che è qui ospite insieme con Stefano Folli del Sole 24 Ore, che è in studio, e con Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e conduttore della striscia quotidiana Panorama del Giorno in onda su Canale 5, a Enrico De Aglio farei questa domanda, appunto, che si desume da quello che ho tentato di dire nell'introduzione. Si può dire che il giudice Gandus è anti-berlusconiano? Non so, io dovrei dire a questo punto no, è un giudice di provata e lunga carriera, conosciuto per la sua imparzialità, non ha mai avuto nessun problema di questo genere, è stato, mi sembra di ricordare, sottoposto al vaglio, insomma, per sapere se era in grado, se non era viziato di pregiudizi da parte della difesa del processo, l'ha superato, ha condotto il processo assolutamente normalmente, ha fatto la sua sentenza e ha fatto le sue motivazioni. Quindi, però, io lo so che cosa dovrei dire adesso secondo la parte, no? Io dovrei fare la parte di quelli che dicono, la faccio, però diamola anche un po' per scontata, non c'è paese al mondo in cui un Presidente del Consiglio si ritrae al processo, si fa approvare una legge, eccetera, eccetera, apposta per stare fuori. Non c'è paese al mondo in cui un Presidente del Consiglio accusato a più riprese di corruzione varie, eccetera, nell'arco di 15 anni. Non c'è paese al mondo che non dà, in cui il Presidente non dà le dimissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi però questa la diamo per scontata. Diciamo, non è un eroe. Se vuole anche fare un'altra parte, per noi sarebbe sorprendente, sarebbe una notizia. Se lei volesse fare un'altra parte, per noi sarebbe sorprendente. Questo per scontato, semplicemente do anche per scontato, rispondendo alla sua introduzione, insomma, che è una versione, diciamo, dei fatti. C'è in Italia un gruppo di giudici che si sono autoarruolati in una militanza civile, eccetera, io questa, diciamo, la contesto, perché tanto per cominciare mi sembra che la stragrande maggioranza della magistratura italiana invece sia particolarmente acquiescente, non sia per nulla militante, no? Per le vicende che attraversa il paese, no? Non mi sembra che ci sia stato. Cioè, c'è una certa mancanza di giudici che abbiano, come dire, la disponibilità ad attaccare in tribunale Berlusconi, questo vuole dire? No, Berlusconi non solo, tutto. Mi pare che ci sia questa deficienza di. No, che conducano inchieste, giudici in questo caso. Pronto? Sì, giudici in questo caso PM, no? Sto parlando, che conducano inchieste di accusa su tutti i fatti che noi conosciamo in Italia, di mafia, di corruzione, di malversazione, di abusi edilizi, di tutto quanto, eccetera, eccetera, mi sembra che siano abbastanza pochi. Questo però per quanto riguarda l'accusa, che riguarda appunto la necessità e la come si dice, obbligatorietà di agire quando c'è una notizia di reato. Per quanto riguarda poi i giudici giudicanti, anche questo mi sembra che se c'è una cosa che in Italia, diciamo, non si è vista praticamente, è il cosiddetto giustizialismo. A me sembra che gli episodi, insomma, di condanna siano assolutamente minuscoli e abbastanza, insomma, diciamo, molto pochi rispetto a quello che uno si potrebbe immaginare. Insomma, cioè, ci sono poche inchieste e poche condanne in Italia in cui il potere è stato accusato direttamente di omicidi, di mafia, di corruzione, tutte le cose più terribili del mondo, e mi sembra che siano stati tutti assolti alla fine, no? Vabbè, insomma, questa è una, è anche questa un'idea, insomma, che ci sia un, una mancanza di giustizia d'assalto, militante, forte, radicale, che impone il tema della legalità. A me sembrava diverso il panorama, però rispetto la sua opinione, De Aglio. Sentiamo quella di Belpietro. Ma, direttore. Sì. Sì, sentendo De Aglio, sì, sembra appunto che qui ci sia un grave problema di rappresentanza del Premier, perché da 15 anni c'è questo Premier, insomma, che non si fa processare. In realtà i processi ne sono stati fatti tantissimi, tutti conclusi, devo dire, o in archiviazioni o in prescrizioni, come questo, tutti i processi... Che perfino con... una soluzione o due... Prego? C'è perfino una soluzione o due? C'è perfino una soluzione o due, sì, ce ne sono alcune appunto. ma il problema è più generale, è quello effettivamente che in Italia da 20 anni c'è uno scontro tra magistratura e politica, cominciato prima all'epoca della Prima Repubblica, non voglio dire che non vi fossero anche delle ragioni di eccessi della politica, ma l'azione con cui la magistratura si è mossa è un'azione che ha ovviamente dei fini politici. Del resto, essere giudicati da un giudice che partecipa a delle iniziative contro il governo, essere giudicati da giudici che esprimono delle opinioni durissime contro una sola parte politica, beh, non è che dia molte garanzie di indipendenza. Cioè, quando ci si richiama ai sistemi giudiziari degli altri paesi, cioè sarebbe impensabile vedere un giudice militante, un giudice che ha opinioni politiche così precise, e sarebbe impensabile vedere un rapporto così forte, stretto tra accusa giudici, come invece è accaduto. Tutti si ricorderanno le famose frasi del bastone e della carota, no? Durante un procedimento contro Silvio Berlusconi, un magistrato si avvicinò al giudice, siccome il microfono era ancora acceso, siccome il PM insomma lamentava una certa posizione, il giudice dice: sì, ma guarda, usiamo un po' il bastone e la carota, no? Col tono complice. Beh, non è certo una situazione in cui uno si sente garantito, soprattutto se poi si vede che l'azione giudiziaria va solo in una direzione. Ecco, ma io non vorrei adesso sembrare elusivo, perché il tema naturalmente è la sentenza Mills, che è grave per Berlusconi, perché nella motivazione è stato detto che lui è il corruttore e Mills è il corrotto. Però questa questione della politicizzazione dei processi, che è esplosa e che è diventata l'elemento forse determinante della vita politica italiana da 15 anni, lo chiedo a Folli, e mi sembra che questa questione abbia delle vere e proprie radici storiche. Cioè, c'è crollata una repubblica sulle inchieste della magistratura di Milano intorno alla corruzione. In genere le inchieste sulla corruzione comportano l'arresto di alcune decine, vabbè, nei casi più gravi anche alcune centinaia di uomini politici, imprenditori, manager, coloro che hanno garantito, diciamo, il cartello corruttivo, ma si configurano come processi, non spazzano via interi partiti. Invece i processi Andreotti per omicidio, per associazione per delinquere di stampo mafioso. Oggi Carlo Federico Grosso fa i complimenti ad Andreotti e sulla stampa. Carlo Federico Grosso è un commentatore, è stato anche nel CSM, eccetera, un commentatore, un uomo di sinistra, era con me in consiglio comunale, eletto come consigliere comunale dal PC, insomma è un uomo di sinistra, quindi diciamo, il suo giudizio è garantito. Dice, fa i complimenti a Andreotti, dice: Andreotti, gli hanno fatto un processo che non aveva senso per mafia, e lui si è difeso senza mai attaccare l'arbitro, cosa che invece Berlusconi fa. La mia domanda è questa: siccome appunto c'è crollata una repubblica, Berlusconi è in politica per quello, perché i partiti sono stati spazzati via, da questa incalzante offensiva civile di un ceto. I magistrati non sono solo oggi Nicoletta Gandus, ieri, sono un ceto che si è politicizzato. Adesso questo non devo dimostrarlo, Di Pietro era il principale accusatore di Tangentopoli, fa politica da capo partito da non so quanto tempo. D'Ambrosio era, insomma, il pivot del pool di Mani Pulite a Milano, è stato deputato del Partito Democratico, dei DS, adesso non mi ricordo più neanche la sigla. Insomma, voglio dire, i giudici quello fanno, no? No. Questo è un paese certamente pieno di anomalie, su questo non ci sono dubbi. È un'anomalia il modo in cui è crollata la Prima Repubblica. È stata allora un'anomalia la sovraesposizione con funzioni anche di supplenza politica della magistratura, di una parte consistente della magistratura. È stata un'anomalia molte delle cose accadute dopo, tutta la storia politica di Berlusconi, che è una storia che ha segnato il paese, che ha dominato questi 15 anni, è fatta anche di tante anomalie. Insomma, lo stesso personaggio Berlusconi è anomalo dal punto di vista politico, no? Ed è il prodotto di quella anomalia originaria, in un certo senso. È anomalo anche il lodo Alfano, devo dirlo, perché insomma non è una cosa normale che ci sia questo genere di protezione. Lei dice, Ferrara, anche in altri paesi europei, beh, non è proprio così. Ecco, noi siamo un pochino diversi in questo senso. E poi soprattutto è stato fatto sotto l'incalzare degli eventi, che questa è un'altra anomalia. Allora, in tutte queste anomalie c'è un problema. Diversi, però, diciamo, Sarkozy e Berlusconi sono la stessa stregua oggi, non giudicabili da un tribunale, finché sono in carica. Sì, però, per esempio, inviolabilità si chiama addirittura in Francia. Sì, sì. Comunque, il problema di fondo è che c'è questa questione aperta tra magistratura e politica che ha attraversato questo quindicennio, in cui c'è una magistratura politicizzata, e c'è però una classe politica, a mio avviso, qui insomma è una responsabilità che chiama in causa chi in questo momento ha una maggioranza importante, non è riuscito in questi anni a proporre altro che una esasperazione continua questo scontro. Non hanno mai fatto la riforma della giustizia. Una esasperazione insopportabile. Cioè, insomma, il paese questo è un paese in cui la giustizia per il normale cittadino non funziona. Sì. Nessun processo va a buon fine, nessun cittadino ha diritto di aspettarsi giustizia, perché insomma non succede quasi mai. E però tutte le energie sono risucchiate in questo scontro senza mai uno sbocco positivo. E non c'è gli stessi esponenti importanti della sinistra, come il Violante, per esempio, hanno detto: ma cerchiamo di ricostruire un rapporto decente tra magistratura e politica, cerchiamo di ricondurre la magistratura nei suoi ambiti, con le sue garanzie e dandole anche autorità, evidentemente, restituendole tutto. Però succede che possiamo soltanto essere prigionieri di questo braccio di ferro permanente, un braccio di ferro che non porta da nessuna parte. Questo io credo che sia qualcosa di molto grave dal punto di vista politico. Carlo da Roma, buongiorno Carlo. Buongiorno, dunque io sono un medico e qualche considerazione su questo processo la posso dire anche da medico. Comunque premetto che Berlusconi non ha avuto nessuna condanna, è stato condannato. Diciamo che come medico lei è più imparziale di un magistrato. Diciamo. No, voglio dire, però forse bisognerebbe far processare Berlusconi dai medici invece. No, voglio dire semplicemente che Berlusconi, per quello che passa da 15 anni, potrebbe trovarsi proprio nella condizione del dipendente che sta con disagio psichico in un lavoro, per cui il responsabile è il datore di lavoro, e lo dice la legge 626. Purtroppo Berlusconi è responsabile di se stesso, perché a chi lo va a dire che è quello che sopporta? Perché se in Italia c'è una rappresentanza, quindi lo è Stato... È ricco, è potente, su, adesso non possiamo dare un'idea di Berlusconi come di un Cristo in croce. No, voglio dire semplicemente che quantomeno l'importanza delle cariche della magistratura debbono stare allo stesso livello della importanza del capo del governo. Perché, vabbè, qual è la sua opinione comunque, Carlo? Io sono dell'opinione che Berlusconi è fatto bersaglio logicamente apro un secondo come tutto quello che ha detto lei, insomma praticamente quindi c'è un anti-berlusconismo che non giovana naturalmente. Se esprime consenso con quello che ho detto io, Carlo, devo togliere la parola perché sennò diventa troppo. Sentiamo Marco dalla provincia di Milano. Grazie Carlo. Marco. Sì, buongiorno, grazie per lo spazio. Io vorrei semplicemente fare una considerazione, intanto una premessa, che quello che è il mio punto di vista vale sia che si chiami Silvio Berlusconi, ma varrebbe e vale per un D'Alema, per un Mastella, per tutta una serie di personaggi che si troverebbero e si sono trovati a gestire comunque il potere. Per cui è libero il mio punto di vista. Sì, ma poi sono un po' tutti sullo stesso piano, perché anche D'Alema, quando è stato il momento, insomma, è svicolato tra i processi, infatti, mandato esatto, europeo. Infatti mi piacerebbe sapere appunto come era andata a finire anche quella storia. Vabbè, ma comunque, insomma, questo è normale, c'è una clausola di non processabilità senza il consenso dell'assemblea elettiva a cui appartieni, e D'Alema ha avuto questo viatico. Ma dica, cosa vuol dire lei, Marco? Io quello che trovo scorretto è che si guardi al medio termine e non si guardi a lungo termine, voglio dire, ci si nasconde dietro al fatto che processare il Presidente del Consiglio rischierebbe di minare la stabilità del governo. Io faccio un discorso a lungo termine, cioè cerco di guardare oltre, e quindi considero che è meglio, preferirei che si rischiasse di minare la stabilità del governo, però a vantaggio di un rafforzamento dell'etica di chi governa e quindi del paese in toto. Certo. Me ne frego se in qualche modo la stabilità del governo viene meno, ma se questo serve negli anni a rafforzare i principi di base, proprio difendere la legalità, dell'etica, della morale dello pubblica. Stare al mondo, ma ben venga che venga processato D'Alema, Berlusconi, Mastella, Napolitano, cioè chiunque. Ma se questo serve negli anni a far sì che un popolo si rafforzi dal punto di vista etico-morale... Bene, è molto chiaro. Giusi da Brescia, e poi torniamo a Enrico De Aglio. Giusi da Brescia, buongiorno. Allora, premesso che casualmente questa mattina mi sono rimessa ad ascoltare la radio, perché ormai Radio 1 l'ho cancellata. Sì. Speravo che Radio 24 fosse un po' diversa. Purtroppo adesso ho deciso che ascolto musica classica. Bravissima. Perché non se ne guardi più. La musica classica, le garantisco, le darà sempre la gioia di un certo equilibrio, di una certa serenità. Pur di non sentire ormai non no, se ne mi può faccia più. Questa cortesia. Cioè, questa ascolti la musica classica. Discutere, no? Dopo anche la sera però, i giornali radio, mi lascia parlare, dottore. Sì. Dopo che abbiamo ascoltato che in Inghilterra no, vorrei che lei parlasse di musica classica con i soldi pubblici si è messo la papera galleggiante in giardino, si è dimesso nel giro di e noi stiamo ancora qui a discutere. Ancora difendere, cioè almeno, non lo so, dico, almeno neutralità, aspettare magari che, se Dio vorrà, il signor Berlusconi possa finire. Ma lei si riferisce alle mandato, mie opinioni? Magari venga giudicato, ma non Giusi, che lei si riferisce alle mie opinioni? No, guardi, è lei è contraria così, ormai, alle mie opinioni, così, ma lei ha diritto lampante. Di essere contraria, d'altra parte, scusi, diciamo. Un paese libero è fatto in questo modo, no? Io dico quello che penso, De Aglio ha detto delle cose diverse, lei dice delle cose diverse, perché mi vuole censurare? Però che anche i giornalisti non abbiano la capacità di essere super partes, e invece sono, siccome... Ma come super partes? I giornalisti devono dire quello che pensano, non essere super partes. No, mi lascia parlare, siccome il nostro primo ministro non ha abbastanza potere, con radio, giornali, chiaramente gli date una mano. Mm-hmm, perché sì, così in campagna elettorale poverino allora almeno... Lei vuole che siamo tutti contro Berlusconi che ha acquistato una papera da giardino e non si è dimesso, tutti contro, vuole tutte le radio, tutte le televisioni, tutti i giornalisti contro, questa è l'Italia che vuole? Ascoltare la RAI ormai è così, è diventata una cosa veramente indegna. Tutti contro, ci vuole intanto no, lei sente contro, musica tutti classica. Tutti che partecipano, la maggior parte dei giornalisti, evidentemente si dice in questo periodo che non c'è più. Ma quali giornali legge lei? Legga il Corriere della Sera, la Stampa, la Repubblica, vedrà che troverà molti, il Messaggero, molti articoli critici del Presidente del Consiglio. È un paese libero questo, non è un paese... Non so, De Aglio, veramente c'è un coro a favore di Berlusconi, secondo lei? Un coro abbastanza, no, ma sì, Direi proprio di sì, insomma. Cioè, la linea editoriale della Stampa è sostenere Berlusconi? Guardi che no, mi dica. Soprattutto sì. C'è un coro popolare, perché ho guardato stamattina i giornali, i sondaggi elettorali e quello che pensano. Vabbè, c'era il sondaggio di Repubblica, diceva pre motivazione Mills, ma non credo che cambia niente, insomma. Vabbè, restauriamo che... allora il diritto di voto per censo. Posso fare due, se si fa il voto per censo, Berlusconi perde. Fino adesso. Prima, alla sua osservazione che dovrebbe essere giudicato da un medico, Silvio Berlusconi, è esattamente quello che chiede sua moglie. Perché quando ha detto, ma è possibile che le persone che gli stanno intorno non vedono che non sta bene? Quindi lo faccio anche mia moglie pensa che non sto bene quando alzo la voce. Una cosa, allora tutti dobbiamo essere giudicati avanti. Dai la medici. La seconda è che è vero che ci sono dei magistrati in Parlamento, eletti, ma pensi a quanti avvocati ci sono, i company lawyers, no? Sì. Che sono poi con cariche istituzionali, presidenti della Commissione Giustizia, eccetera, anche questo è buffo. Ma in non so, generale... io ricordo Guido Calvi ai tempi sì, di D'Alema, Guido Calvi, era l'avvocato del PC, l'avvocato di D'Alema, l'avvocato dei banchieri. Guardi, la cosa di cui dobbiamo andare, tutto sommato... Se si tolgono gli avvocati, il Parlamento non si elegge proprio, certo. Sono tutti avvocati. La cosa di cui dobbiamo andare abbastanza contenti in Italia è che abbiamo fatto un passo avanti, perché questi problemi con i giudici che erano esasperanti, che erano pazzi, che eccetera eccetera, fino a 15 anni fa in Italia si risolvevano ammazzandoli, no? Uno andava, ammazzava il giudice, così il processo non si faceva più. Ora non si fa più. Beh, così. I compagni che sbagliano negli anni 70 dei giudici li hanno ammazzati parecchi. Ma parecchi. Anche che parecchi. E quindi da questo punto di compagni vista. Compagni e compari. Siamo, sì. Come si dice, portati insomma su un livello più civile. Ecco, si parla, sì. Si grida, eccetera, ma fino adesso, insomma, da un po' di tempo non si ammazza più. Quindi vede che è un passo avanti. Sull'ultima questione, invece, che a cui facevo accenno prima, questi magistrati che dovrebbero dominare in qualche maniera non la dominano affatto, perché i partiti politici, in particolare di opposizione, non sposano per nulla le tesi, se queste ci sono, o le notizie o le conclusioni, diciamo, giudiziarie che alcuni magistrati hanno messo poi nero su bianco, eccetera, ma considerano, insomma, che con questo governo si può fare un altro tipo di opposizione, che le cose di legalità, di stare al mondo, come si dice, o di visione generale del paese che questi magistrati sottolineano con le loro accuse o con le loro sentenze, non valgono la pena di essere presi in considerazione. Ma secondo lei perché il mentore, diciamo, della legalità, Luciano Violante, già presidente della Camera, eccetera, eccetera, ha cominciato da qualche tempo a dire le cose che dice? Ma da molto tempo, cioè, ha cominciato. Ha cominciato a dire, tutti l'hanno notato, via, sì. Su, cerchiamo di essere da questo punto di vista un pochino franchi e diretti. Ha cominciato a dire, vabbè, vi dico la verità, sì, io... però adesso, insomma, delle cose abbastanza simili a quelle che ho detto io, eh? Cioè bisogna rientrare in certi ranghi, riprendere un modo di giudicare, diciamo, ricostruire una zona neutra della giustizia, ecco, più o meno, no? Io ho trovato perché? Molto significativo, è una svolta notevole. Insomma, è un cedimento culturale, ideologico, secondo me. Sì, una persona che ha fatto il presidente della commissione antimafia, che ha concluso una commissione antimafia con accuse pesantissime a tutto il potere politico e in particolare a quello andreottiano, non ha fatto tesoro delle sue stesse conclusioni e ha cambiato idea, questo da molto tempo. Belpietro, sì, Belpietro De Aglio ha detto una cosa, devo dire, con scaltrezza, con intelligenza, con acutezza, secondo me. Ha detto, ma qui il problema non è il coro dei giornali, che poi insomma è una cosa, appunto, anche quella soggetta a interpretazioni. Basta leggerli i giornali, ce n'è di notizie che danno dei dispiaceri al nostro povero Premier. No, il punto è un altro, dice De Aglio. Qui c'è un coro popolare, cioè la gente lo vota, sono 20 anni che appunto c'è la situazione giudiziaria periclitante per il Premier, si deve difendere nei processi, fioccano le accuse, eccetera, ma insomma i magistrati non convincono mai una maggioranza di cittadini del fatto che ci vuole un ricambio, perché questo Premier è nei guai come businessman, come capo di una... Ecco, lei che dice di questo fatto, che è abbastanza significativo? perché questo è proprio il tema centrale della questione. Ossia, il fatto che Berlusconi vinca le elezioni democraticamente è una di quelle cose che nessuno a sinistra, tra i magistrati, tra quell'establishment intellettuale che ha sempre contato in questo paese, riesce a capire, di cui sa capacitarsi, cioè dice: com'è possibile? Basta leggere i libri, del resto, l'ultimo di Valentini, no? Di Giovanni Valentini, editorialista di Repubblica, che dice proprio questo, cioè siamo di fronte a una reazione da parte di un settore della sinistra, da parte della magistratura, di un della magistratura, non tutta per fortuna, ma parte anche minoritaria della magistratura, che dice: ma non è possibile che questi votino Berlusconi, non è possibile che nonostante tutto il consenso cresca. E quindi c'è come la convinzione che Berlusconi abbia rimbambito gli italiani, abbia con i suoi programmi televisivi, con la ruota della fortuna piuttosto che qualcos'altro, tolto l'intelligenza agli italiani, e li abbia come un pifferaio magico guidati. Li ha distolti dalla lettura di Umberto Eco. Sì, anche Umberto Eco. Quella, no, li ha distolti, dico, no? Non leggono più Eco, guardano Mike Buongiorno. Non leggono Eco, guardano Mike Buongiorno, non leggono... Quindi il convincimento è in fondo, gli italiani sono stupidi. Tutti gli italiani che votano Berlusconi sono fondamentalmente stupidi, e quindi da qui ne discende questo atteggiamento. Ma come? Però ma non si può neanche dire che chi vince le elezioni, per il solo fatto di avere con sé la maggioranza degli elettori, tutto quello che fa è sacrale, diciamo. È, ma non dico assolutamente no, questo. Basta non dire il contrario. Sul piano politico, ma non va abbattuto per via giudiziaria o addirittura per via gossipara, perché adesso, siccome non si riusciva ad abbatterlo per via giudiziaria, è cominciata un'altra operazione, che è quella, l'abbattimento per via gossipara. Siccome sì, è indegno, e allora lo si mette sui giornali di gossip e si comincia a scavare nella sua vita privata cercando di trovare qualche cosa che riesca a scavare, non tanto perché, diciamo, al gossip lui dà un bel contributo a Berlusconi personale. Ma lui dà sicuramente tanti contributi. Non c'è bisogno di scavare tanto. E non è il solo, se ci si guarda intorno, voglio dire, no, certo. Grandi presidenti, Mitterrand, che era un grande presidente, contribuiva con tante di quelle cose, solo che c'era un atteggiamento di... non c'era ancora un certo atteggiamento della sinistra, non c'era neanche il centrodestra che si schia sì, poi Mitterrand faceva parte della... non c'erano i magistrati, sì, non c'erano i giornalisti. Mitterrand faceva parte della grande schiera eletta degli statisti ipocriti, mentre Berlusconi è lo statista, diciamo, Berlusconi meno ipocrita, statista che si fa quello che ritiene di fare, giusto o sbagliato, ma è sotto gli occhi di tutti, non si sa. Ma voglio dire, alla fine, quindi, c'è il tentativo di trovare una via giudiziaria, oppure, appunto, come dicevo, per abbatterlo, per riuscire a fare quello che, insomma, per via elettorale non si è riusciti a fare. E questo è il vero, il concetto del primato di alcuni, che si ritengono i migliori, e sono contro gli italiani che votano Berlusconi. E la ragione di tutto l'atteggiamento a cui noi assistiamo da 15 anni è questa. Bene, non c'è un dibattito normale tra una sinistra e una destra che hanno opinioni diverse e che si contendono il governo del paese su delle cose concrete. C'è un tentativo di trovare una scorciata per frenare il centrodestra, per buttarlo giù, far deragliare Berlusconi, in qualche modo levarlo di mezzo. È il tentativo che hanno fatto negli ultimi 15 anni, levare di mezzo Berlusconi. Bene, bene, bene. Siamo in chiusura sul caso Mills. Enzo da Milano. Enzo, buongiorno. No, ringrazio per farmi partecipare alla trasmissione. Quello che volevo dire era questo. Dunque, allora, secondo me la magistratura non ha tanto tempo di seguire gli altri processi, come diceva qualcuno, cioè processi che non finiscono mai, eccetera, eccetera, in quanto gli italiani fanno processi per qualsiasi cosa, un pugno, un incidente della macchina, una banca che non va, un'assicurazione e quant'altro, e quindi la magistratura è bloccata per questo. Per quello che riguarda il discorso più propriamente che riguarda il presidente Berlusconi, io penso che non esista in un certo senso una magistratura di sinistra, quantomeno esiste sicuramente qualche magistrato che voterà a sinistra, e su questo non mi sembra che ci sia nulla di strano, visto che ci saranno sicuramente magistrati che militano e votano a destra. Quanto il problema è questo, che Berlusconi, nella posizione che è, come tanti politici della maggioranza, nella posizione in cui sono, la maggior parte sono imprenditori, sono la parte che i magistrati prendono più di mira, proprio il fatto che diciamo, la poca virtù che c'è sta proprio lì, non sta negli operai che lavorano alla Falca o alla Breda, che non esistono, certo, neanche, certo, più, per dire. Bene, ma... il potere è intrinsecamente corrotto, insomma c'è un elemento di corruzione nel potere, e quindi ovviamente i magistrati, non perché sono politicizzati, ma perché devono controllare la legalità. Va bene, invece Tarcisio da Pesaro ha tutt'altra opinione, mi sembra, soprattutto sul Lodo Alfano. Io dico che è una fortuna che ci sia il Lodo Alfano, in caso contrario avremmo già la crisi di governo, nonostante che non ci sia ancora una condanna definitiva. E in presenza di una crisi internazionale, di accordi industriali in atto, del terremoto in Abruzzo, è pazzesco. Per fortuna che c'è il Lodo Alfano. Poi, un'altra anomalia. Ma in quale altro paese i magistrati scendono in piazza e fanno sciopero se il Parlamento fa una legge a loro non gradita? De Aglio. Quindi ci sono... No, cosa devi dire? Guardi, il vero colpo Tarcisio, di scena... Tarcisio è strano, no? È un'opinione abbastanza... Ma il vero colpo di scena per portare tutto, diciamo, a conclusione quello che si è detto sarebbe che qualche magistrato ideologizzato adesso, andando a scovare tra il gossip, le carte, le intercettazioni, scoprisse un passaggio di denaro tra l'avvocato Mills e Noemi Letizia. Questa sarebbe la cosa che forse non cambierebbe di nuovo nessuna cosa nei sondaggi popolari. No? La chiusura del cerchio, del cerchio, sì. Ma insomma, effettivamente la connessione fra sentenze giudiziarie e pettegolezzi può essere letale. Non so bene come ne uscirà politicamente, secondo Folli, il Premier. Cioè, adesso abbiamo fatto, non dico un'analisi, ma insomma una discussione spregiudicata su questo caso Mills. Ma intanto dovrebbe, per uscirne, dovrebbe evitare quello che è stato voleva andare in Parlamento, di fare, era giusto? No, malissimo. Ritrovo che sia un errore gravissimo andarci con quei presupposti. Cioè, lui l'altro giorno ha detto vedrete che cosa dirò contro i giudici in Parlamento, sì, perché gli italiani sono con me. Cioè, l'idea di usare il Parlamento come prova che appunto il voto popolare di cui Berlusconi dispone può essere usato come un maglio, no? Un missile da sparare era contro i magistrati, insomma, sì. Beh, francamente più che estremista, no? Perché in questo momento mi sembra che l'idea di scassare un minimo di equilibrio istituzionale mettendo in gioco poi tutta una serie di conseguenze. Io mi astengo, no? Faccio l'ipocrita. Lei faccia l'ipocrita, io dico quello che però penso. Però non mi sarebbe dispiaciuto lo spettacolino, eh? Adesso diciamo come cronista politico lo spettacolino mi sarebbe piaciuto. Ecco, invece però io credo che un minimo di attenzione da parte del Presidente del Consiglio a non appunto mettersi sotto i piedi tutta una serie di equilibri istituzionali che invece io ritengo che siano... che sia giusto preservare, e apre la strada a un modo di concepire anche la sua funzione che mi piacerebbe di più. Piacerebbe di più se fosse dedicata appunto a fare delle riforme, cercare di portare in porto tutta una serie di passaggi riformatori, possibilmente anche da discutere minimo con l'opposizione, visto che abbiamo appunto, citavamo prima Violante, evidentemente c'è una disponibilità da parte di settori dell'opposizione ad affrontare le questioni, altrimenti ci condanniamo a questo teatro, a questa esasperazione permanente. Non so quanto tempo ancora gli italiani potranno sopportarla, per adesso la sopportano e i sondaggi sono a favore di Berlusconi, però io credo che ci sia anche un minimo di necessità di uscire da questo permanente braccio di ferro. Bene, ringrazio molto Stefano Folli, Enrico De Aglio e Maurizio Belpietro, e in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti e Peter Bescapè. Linea al giornale radio, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A domani, baci.